Si congedò con una fretta piena di nervosismo e disse al cocchiere di dirigersi al magazzino di Mr. Vincey. In quel breve tratto di strada il suo terrore accumulò tanta forza dalla sensazione della sua ignoranza che quando entrò nell'ufficio privato dove il fratello era seduto allo scrittoio, le ginocchia le tremavano e il suo volto, solitamente florido, era di un pallore mortale. Un effetto più o meno simile fu prodotto in lui dalla vista di lei. Egli si alzò dalla sedia per andarle incontro, le prese la mano e disse, con la sua accresciuta impulsività. Che Dio ti aiuti, Harriet, sai tutto. Quel momento fu forse peggiore di tutti quelli che seguirono. Conteneva quell'esperienza concentrata che nei momenti di grande crisi dei sentimenti svela l'inclinazione di una natura ed è foriero dell'ultimo atto che porrà termine a una lotta. Senza quel ricordo di Raffles, lei avrebbe ancora potuto pensare solo alla rovina economica, ma adesso, con l'occhiata alle parole del fratello, le balenò per la mente l'idea di qualche peccato commesso dal marito. Poi, suggerita dal terrore, giunse l'immagine del marito esposto al disonore, e poi, dopo un istante di bruciante vergogna, durante il quale si rese conto solo degli occhi del mondo, con un balzo del proprio cuore gli fu al fianco, addolorata ma non accusatrice, compagna nella vergogna e nell'isolamento. Tutto questo avvenne entro di lei in un baleno, mentre sprofondava nella poltrona e sollevava gli occhi verso il fratello, il quale le stava sopra. Non so niente, Walter. Di cosa si tratta? Chiese con voce flebile. Egli le raccontò tutto, in modo assai naturale, in brevi frammenti, facendole capire che lo scandalo andava molto al di là di ciò che si era dimostrato, soprattutto riguardo alla morte di Raffles. La gente vuole parlare, gli disse. Anche se un uomo è stato dichiarato innocente da una giuria, loro vogliono parlare, scuotere la testa e strizzare l'occhio. E per come va il mondo, un uomo può spesso essere colpevole oppure no. È un colpo terribile e rovina Lydgate come Balstrow. Io non ho la pretesa di dire quale sia la verità, vorrei soltanto che non avessimo mai sentito il nome né di Balstrow né di Lydgate. Per te sarebbe stato meglio restare a una Vincy per tutta la vita e anche per Rosamond. Mrs. Balstrow non rispose. Ma devi farti forza, meglio che puoi, Harriet. La gente non biasima te e io ti starò vicino, qualsiasi cosa deciderai di fare, disse il fratello con rozza ma ben intenzionata affettuosità. Dammi il braccio fino alla carrozza, Walter, disse Mrs. Balstrow. Mi sento molto debole. E quando giunse a casa, fu obbligata a dire alla figlia: Non sto bene, cara, devo andare a distendermi. Prenditi cura di tuo padre. Non mi disturbate, non cenerò. Si chiuse a chiave nella propria stanza. Aveva bisogno di tempo per abituarsi alla sua coscienza mutilata, alla sua povera vita sfrondata, prima di potersi dirigere con passo fermo al posto assegnatole. Una nuova luce si era posata sul carattere del marito e lei non riusciva a giudicarlo con indulgenza. I 20 anni durante i quali aveva creduto in lui e lo aveva venerato, in virtù della sua dissimulazione, le tornarono alla mente con dei particolari che gli fecero apparire un odioso inganno. Egli l'aveva sposata con quel brutto passato dietro di sé e a lei non restava alcuna fiducia per proclamare l'estraneità del marito al peggio di cui era accusato. La sua onesta natura orgogliosa rendeva la partecipazione a un disonore meritato amara, come avrebbe potuto esserlo per ogni mortale. Ma questa donna, dall'istruzione imperfetta, le cui frasi e le cui abitudini erano uno strano mosaico, aveva uno spirito leale. L'uomo con cui aveva condiviso la prosperità per quasi metà di una vita e che le aveva costantemente avuta cara, ora che la punizione si era abbattuta sul suo capo, non le era possibile in alcun senso abbandonarlo. C'è un modo di abbandonare che tuttavia consiste nel sedere allo stesso tavolo e giacere nello stesso letto dell'anima abbandonata, facendola avvizzire ancora di più con una prossimità priva d'amore. Lei sapeva, quando serrò a chiave la porta, che avrebbe dovuto disserrarla, pronta a scendere dall'infelice marito e sposare il suo dolore e dirle della sua colpa. Mi affliggerò, ma non lo rimprovererò. Ma aveva bisogno di tempo per raccogliere le proprie forze, aveva bisogno di dire addio fra i singhiozzi, alla felicità e alla fierezza della propria vita. Quando ebbe deciso di scendere, si preparò con alcuni modesti atti, che potrebbero sembrare pura follia a un severo osservatore. Erano il suo modo di esprimere a tutti gli spettatori, visibili o invisibili, che aveva iniziato una nuova vita in cui abbracciava l'umiliazione. Si tolse tutti gli ornamenti e indossò una comune veste nera, e invece di portare la sua cuffia tutta adorna e le ampie volute di capelli, si pettinò in giù la chioma e se la coprì con una cuffia comune, che le conferì d'improvviso l'aspetto di una delle prime metodiste. Balstrò, il quale sapeva che la moglie era andata fuori e che era rientrata dicendo di non sentirsi bene, aveva trascorso il tempo in preda a un'agitazione pari a quella di lei. Si era aspettato che venisse a sapere la verità da altri e aveva accettato quella probabilità come qualcosa a lui più facile di qualsiasi confessione. Ma ora che immaginava arrivato il momento in cui lei aveva saputo, attendeva angosciato l'esito. Le figlie erano state obbligate ad acconsentire a lasciarlo e, sebbene avesse permesso che gli venisse portato un po' di cibo, non lo aveva toccato. Si sentiva morire lentamente, di una tristezza incommiserata. Forse non avrebbe mai più visto dell'affetto sul volto della moglie, e se si rivolgeva a Dio sembrava che non ci fosse alcuna risposta, tranne il peso della punizione. Erano le 8 di sera quando la porta si aprì e sua moglie entrò. Non osò alzare gli occhi verso di lei, egli sedeva con lo sguardo a terra, e mentre si dirigeva verso di lui, lei credette che apparisse rimpicciolito, sembrava così vizzo e raggrinzito. Un moto di nuova compassione, antica tenerezza, la attraversò come una grande ondata. E posato una mano sulla sua, che era appoggiata al bacciolo della poltrona, e l'altra sulla spalla, lei disse in tono solenne ma gentile: «Alza gli occhi, Nicholas». Egli sollevò lo sguardo, con un lieve sobbalzo, e la guardò per un attimo mezzo sbalordito. Il suo volto pallido, l'abito mutato da lutto, il tremito attorno alla bocca, tutto diceva: «So». E le mani, gli occhi di lei si posarono dolcemente su di lui. Egli scoppiò a piangere e insieme piansero, lei seduta al suo fianco. Non potevano ancora parlarsi della vergogna che lei sopportava assieme a lui o delle azioni che l'avevano fatta cadere su di loro. La confessione di lui fu muta e la promessa di fedeltà di lei fu muta. Pur priva di preconcetti, lei non di meno ne fuggì dalle parole che avrebbero espresso la loro comune consapevolezza, come sarebbe rifuggita da faville di fuoco. Lei non riuscì a dire quanto è solo calunnia e sospetto infondato, ed egli non disse: «Sono innocente». Capitolo 75. Rosamond ebbe un barlume di rinnovata allegria quando la casa venne liberata dalla minacciosa presenza e quando tutti gli antipatici creditori furono pagati. Ma non era gioiosa. La sua vita matrimoniale non aveva realizzato nessuna delle sue speranze e nella sua fantasia aveva perso ogni attrattiva. In questo breve intervallo di calma, Lydgate, memore di essere stato spesso violento nelle ore di agitazione e consapevole del dolore che Rosamond aveva dovuto provare, si mostrò sollecitamente tenero nei suoi confronti. Ma anche egli aveva perso un po' del suo ardore di un tempo e giudicò ancora necessario accennare a un mutamento nel loro tenore di vita come cosa naturale, cercando di farla abituare gradatamente all'idea e soffocando la propria ira quando lei rispondeva che sperava che egli acconsentisse ad andare a vivere a Londra. Quando non gli rispondeva così, lo ascoltava fiaccamente e si chiedeva cosa le restasse per cui valesse la pena di vivere. Le parole dure e sprezzanti che il marito, in preda all'ira, si era lasciato sfuggire avevano offeso profondamente quella vanità di cui egli in un primo tempo l'aveva fatta attivamente godere. E ciò che lei considerava il suo modo perverso di guardare le cose continuò a suscitare in lei un segreto senso di repulsione che la indusse ad accettare tutta la sua dolcezza come un modesto surrogato della felicità che egli non era riuscito a darle. Si trovavano in condizioni di svantaggio rispetto ai loro vicini e non c'era più nessuna prospettiva per Quellingham. Non c'era alcuna prospettiva da nessuna parte, tranne in qualche lettera saltuaria di Will Ladislav. Si era sentita offesa e delusa dalla decisione di Will di lasciare Middlemarch, perché a dispetto di ciò che lei sapeva e supponeva sulla sua ammirazione per Dorothea, nutriva la segreta fiducia che egli provasse, o inevitabilmente sarebbe giunta a provare, un'ammirazione assai maggiore per lei stessa. Infatti Rosamond era una di quelle donne che vivono nella ferma convinzione che ogni uomo che incontrano le avrebbe scelte se la scelta non fosse stata priva di speranza. Mrs. Casaubon andava benissimo, ma l'interesse di Will per lei era nato prima che egli conoscesse Mrs. Lydgate. Rosamond prese il modo di Ladislav di parlarle, che era un misto di biasimo giocoso e di galanteria iperbolica, come la maschera di un sentimento più profondo. e in presenza provava quel gradevole solleticamento della vanità e il senso di un dramma romantico che la presenza di Lydgate non possedeva più la magica capacità di suscitare. Si immaginava persino cosa non vanno a immaginarsi uomini e donne quando si tratta di queste cose, che Will esagerasse la propria ammirazione per Mrs. Casaubon allo scopo di far impermalire lei stessa. In tal modo la mente della povera Rosamond aveva fantasticato prima della partenza di Will. Questi avrebbe rappresentato, pensavo, un marito assai più adatto a lei di quanto non fosse stato Lydgate. Nessuna idea avrebbe potuto essere più falsa di questa, perché l'insoddisfazione di Rosamond per il proprio matrimonio era da attribuire alle condizioni del matrimonio in sé, all'abnegazione, alla tolleranza che esso esige e non al carattere del marito, ma la facile idea di un migliore ideale esercitava sui sentimenti un fascino che fugava la noia. Si costruì un piccolo idillio che doveva portare varietà alla sua vita piatta. Will Ladislaw doveva sempre restare scapolo e vivere vicino a lei, ed essere sempre ai suoi ordini e nutrire una passione compresa, anche se mai pienamente espressa, che di quando in quando avrebbe emesso fiamme guizzanti in scena di un certo interesse. La sua partenza aveva costituito una delusione di pari misura e aveva tristemente accresciuto il suo fascino per Middlemarch, ma in un primo momento aveva avuto in serbo il piacevole sogno alternativo dei suoi rapporti con la famiglia Quellingham. Da allora i guai della sua vita matrimoniale si erano intensificati e l'assenza di un altro sollievo la spinse a ruminare con rimpianto su quell'esile idillio di cui si era un tempo nutrita. Uomini e donne commettono penosi errori riguardo ai propri sintomi, scambiando i loro vaghi e inquieti desideri talvolta per genialità, talvolta per religione e ancora più spesso per un grande amore. Will Ladislaw aveva scritto delle lettere briose, per metà dirette a lei e per metà a Lydgate, e lei aveva risposto. La loro separazione lo sentiva, molto probabilmente non era definitiva, e il cambiamento che lei ora desiderava maggiormente era che Lydgate andasse a vivere a Londra. Tutto sarebbe stato piacevole a Londra, e si era cinta con tranquilla determinazione a ottenere questo risultato, allorché giunse un'improvvisa, graditissima promessa che la rianimò. Giunse poco prima della memorabile riunione al municipio e si trattò niente di meno che di una lettera da parte di Will Ladislaw a Lydgate, che aveva principalmente per oggetto il suo nuovo interesse per progetti di colonizzazione, ma che accennava incidentalmente al fatto che gli si sarebbe potuta presentare la necessità di fare una capatina a Middlemarch nel giro delle prossime settimane. Una necessità assai piacevole, diceva, quasi altrettanto bella quanto le vacanze per uno scolaretto. Sperava che ci fosse il suo posto di un tempo sul tappeto e gli fosse tenuta in serbo una gran quantità di musica. Ma quanto al momento del suo arrivo era del tutto incerto. Mentre Lydgate stava leggendo la lettera a Rosamond, il viso di questa parve un fiore che rinascesse. Divenne più carino e luminoso. Ora non c'era nulla di insopportabile. I debiti erano saldati, Mr. Ladislaw sarebbe venuto e Lydgate sarebbe stato persuaso a lasciare Middlemarch e a stabilirsi a Londra, che era così diversa da una città di provincia. Quello fu un attimo radioso, ma ben presto il cielo si rabbuiò sulla povera Rosamond. La presenza di una nuova tetraggine nel marito, sulle cui cause egli mantenne un assoluto riservo, perché temeva di esibire la propria anima lacerata alla sua neutralità e incomprensione, ben presto ricevette una spiegazione dolorosamente strana. Estranea a tutte le idee da lei intrattenute in precedenza su ciò che potesse influire sulla propria felicità. Nel suo nuovo umore gaio, pensando che Lydgate stesse semplicemente attraversando una crisi di malumore peggiore del consueto, che lo portava a lasciare senza risposta le sue osservazioni ed evidentemente a tenersi il più possibile lontano da lei, decise alcuni giorni dopo la riunione e senza parlargliene di spedire degli inviti per un piccolo ricevimento serale, nella convinzione che si trattasse di un passo giudizioso dal momento che la gente sembrava si fosse tenuta a distanza da loro ed era necessario ripristinare l'abitudine dei rapporti di un tempo. Quando gli inviti sarebbero stati accettati, lo avrebbe detto a Lydgate e lo avrebbe ammonito saggiamente sul modo in cui un medico dovrebbe comportarsi con i suoi simili. Infatti Rosamond considerava con la massima serietà possibile i doveri altrui. Ma tutti gli inviti vennero declinati e l'ultima risposta capitò nelle mani di Lydgate. Queste sono le zampe di gallina di Keighley. Di cosa ti scrive? Chiese Lydgate, stupito nel porgerle il biglietto. Lui fu obbligato a mostrarglielo e guardandola con severità egli le disse. Perché diavolo hai mandato degli inviti senza dirmelo, Rosamond? Ti prego, insisto, perché non inviti nessuno in questa casa. Immagino che abbia invitato altri e che anche loro abbiano rifiutato. Lei non rispose. Mi senti? Tuonò Lydgate. Sì, certo che ti sento, disse Rosamond, volgendo altrove il capo, con le movenze di un leggiadro volatile dal lungo collo. Lydgate scosse il capo senza alcuna grazia e uscì dalla stanza, sentendosi pericoloso. Il pensiero di Rosamond fu che stava diventando sempre più insopportabile. Non che ci fosse alcuna nuova ragione speciale a giustificare una tale imperiosità. In lui la ritrosia a parlarle di cose di cui era certo in precedenza che lei non si sarebbe interessata stava diventando un'abitudine spontanea. Lei era all'oscuro di tutto quanto fosse il rapporto con le 1.000 sterline, tranne che il prestito proveniva dallo zio Bulstrode. L'umore scostante di Lydgate e l'evidente estraneità dei loro amici coincidevano inspiegabilmente per lei con la loro liberazione dalle difficoltà economiche. Se gli inviti fossero stati accettati, sarebbe andata a invitare sua madre e altri familiari, che non vedeva da diversi giorni. E così indossò il cappello per andare a indagare su quello che era loro successo, provando all'improvviso la sensazione quasi di un complotto per lasciarla isolata con un marito disposto a offendere chiunque. Era passata l'ora di pranzo e trovò il padre e la madre seduti da soli nel salotto. L'accolsero con uno sguardo triste, dicendo: «Bene, mia cara». E nient'altro. Non aveva mai visto il padre così abbattuto e sedutasi vicino a lui disse: «C'è qualcosa che non va, padre». Egli non rispose, ma Mrs. Vincey disse: «Oh, mia cara, non hai saputo niente? Non passerà molto che arriverà alle tue orecchie». «È qualcosa che riguarda Tertius?» chiese Rosamond, impallidendo. L'idea di qualche guaio si collegò immediatamente con ciò che non le era riuscito di spiegare in lui. Oh, mia cara, sì. Pensare che ti sei sposata per trovarti in questo guaio. I debiti erano già una cosa abbastanza brutta, ma questo sarà peggio. Zitta, zitta, Lucy, disse Mr. Vincey. Non hai saputo niente di tuo zio Bulstrode, Rosamond? No, padre, disse la poverina, con la sensazione che il guaio non fosse nulla di ciò che aveva provato in precedenza, ma una qualche forza invisibile con una ferrea presa che la fece venir meno dentro di sé. Il padre le raccontò tutto concludendo: «È meglio che tu lo sappia, mia cara. Penso che Lydgate debba lasciare la città, la sorte gli è stata avversa. Posso dire che lui non ha potuto farci niente, non l'accuso di niente di male». In precedenza era sempre stato pronto a trovare da ridire ferocemente su Lydgate. Il colpo per Rosamond fu terribile. Le parve che a nessuno fosse toccato un destino crudele come il suo, aver sposato un uomo su cui si erano appuntati dei sospetti infami. In una gran quantità di casi è inevitabile che la vergogna venga sentita come la parte peggiore del misfatto. Ci sarebbe voluta una buona dose di riflessione analitica, quale non era mai entrata nella vita di Rosamond, perché in questi momenti avvertisse che il suo tormento era minore di quanto lo sarebbe stato se si fosse saputo per certo che il marito avesse commesso un qualche crimine. Tutta l'onta sembrava essere là, e lei lo aveva sposato, fiduciosa che lui e la sua famiglia fossero un motivo di vanto per sé. Davanti ai genitori mostrò la consueta reticenza e disse solo che se Lydgate avesse fatto come voleva lei, avrebbero lasciato Middlemarch già da tempo. «Ha una forza di sopportazione eccezionale», disse la madre quando se ne fu andata. «Grazie al cielo», esclamò Mr. Vincey, che era assai avvilito. Ma Rosamond si recò a casa con un senso di lecita ripugnanza nei riguardi del marito. Cosa aveva fatto veramente? Come si era realmente comportato? Non lo sapeva. Perché non le aveva raccontato tutto? Lui non le parlò dell'argomento e naturalmente lei non poté parlarne a lui. Una volta le passò per il capo di chiedere al padre di lasciarla tornare a casa, ma a rifletterci sopra, quella prospettiva le sembrò di un'estrema desolazione. Una donna sposata, tornata a vivere con i genitori, pareva che la vita non avesse alcun significato per lei in una simile posizione. Non riusciva a vedercisi. Nei 2 giorni successivi, Lydgate notò un mutamento in lei e pensò che fosse venuta a sapere la brutta notizia. Ne avrebbe parlato o avrebbe persistito sempre nel silenzio che sembrava sottintendere che lei lo reputava colpevole. Dobbiamo ricordare che era in preda a uno stato d'animo malato, per cui quasi ogni contatto gli provocava dolore. Certo, Rosamond in questo caso aveva pari motivo di dolersi del suo riserbo e della sua mancanza di confidenza, ma nella propria anima esacerbata Egli scusava se stesso. Non aveva ragione a ritrarsi dal compito di metterla a conoscenza della cosa, dato che ora che lei era a conoscenza della verità, non sentiva alcun impulso di parlargliene. Ma una consapevolezza ancora più profonda di essere in difetto lo rendeva irrequieto e il silenzio fra di loro gli divenne intollerabile. Era come se fossero entrambi alla deriva su un relitto e uno distogliesse lo sguardo dall'altro. Egli pensò: sono uno stupido. Non ho forse rinunciato ad aspettarmi qualsiasi cosa. Che ho sposato mi dà preoccupazioni, non aiuto. E quella sera disse: Rosamond, sei venuta a sapere qualcosa che ti affligge? Sì, rispose lei posando il lavoro, che aveva continuato a eseguire con una snervata semicoscienza, cosa assai insolita per lei. Cosa hai sentito dire? Tutto, suppongo. Me lo ha detto mio padre. Che la gente mi considera disonorato? Sì, disse Rosamond con voce flebile, riprendendo a cucire macchinalmente. Seguì il silenzio e Lydgate pensò: se ha la minima fiducia in me, la minima idea di quello che sono, ora dovrebbe parlare e dire che non crede che io abbia meritato la vergogna. Ma Rosamond, al canto suo, proseguì a muovere le dita in modo snervato. Qualunque cosa si dovesse dire sull'argomento, lei si aspettava che fosse Terzius a esprimerla. Cosa sapeva lei? E se lui era esente da ogni torto, perché non faceva qualcosa per discolparsi? Questo silenzio di Rosamond invelenì nuovamente quell'amaro stato d'animo in cui Lydgate si era detto che nessuno credeva in lui, neppure Fairbrother si era fatto avanti. Egli aveva incominciato a porle delle domande col proposito che la loro conversazione potesse disperdere la gelida nebbia che si era addensata fra di loro, ma sentì la propria risolutezza frenata da un risentimento pieno di disperazione. Anche questo guaio, come gli altri, sembrava che lei lo considerasse come soltanto proprio. Egli, per lei, era sempre un individuo separato che faceva ciò che lei disapprovava. Si alzò di colpo dalla poltrona in preda a uno scatto d'ira. E ficcatosi le mani in tasca, si mise a passeggiare avanti e indietro per la stanza. Per tutto il tempo ebbe in fondo al cuore la consapevolezza che avrebbe dovuto vincere quest'ira e dire tutto a Rosamond e convincerla dei fatti. Egli infatti aveva quasi imparato la lezione che stava a lui piegarsi alla natura di lei e che siccome lei era avara di comprensione, egli doveva dargliene ancora di più. Ben presto tornò all'intenzione di aprirsi. Non doveva perdere l'occasione favorevole. Se fosse riuscito a indurla a rendersi conto con una certa serietà che c'era una calunnia da affrontare e non da schivare e che tutto il guaio era nato dal suo disperato bisogno di denaro, quello sarebbe stato il momento per mettere in evidenza con energia che dovevano essere uniti nella decisione di tirare avanti con meno denaro possibile, in modo da poter superare il brutto frangente e conservarsi indipendenti. Avrebbe indicato con chiarezza le misure che intendeva prendere e le avrebbe instillato uno spirito di collaborazione. Aveva il dovere di tentare, e cos'altro c'era che potesse fare? Egli non si rese conto da quanto tempo stesse passeggiando nervosamente avanti e indietro, ma Rosamond pensò che fosse molto e si augurò che si sedesse. Anche lei aveva cominciato a vedere in ciò una buona occasione per insistere con Terzius su ciò che doveva fare. Quale che potesse essere la verità in tutto questo supplizio, c'era un unico terrore che si imponeva. Lydgate finalmente si sedette, non nella sua poltrona abituale, ma in una più vicina a Rosamond, piegandosi da un lato verso di lei e guardandola con aria grave prima di tornare ad affrontare il triste argomento. Aveva vinto la propria ira fino a questo punto e stava per parlare con un senso di solennità, come in un'occasione che non si sarebbe ripresentata. Aveva addirittura aperto le labbra, allorché Rosamond, lasciate cadere le mani, lo guardò e disse: Certamente, Terzius. Ebbene? Certamente, adesso avrai finalmente rinunciato all'idea di restare a Middlemarch. Io non posso continuare a vivere qui. Andiamo a Londra. Mio padre e tutti gli altri dicono che faresti meglio ad andartene. Qualunque privazione io debba affrontare, mi sarà più facile lontano da qui. Lydgate si sentì penosamente urtato. Invece di quello sfogo difficile a cui si era preparato con sforzo, ecco che doveva sorbirsi di nuovo la vecchia tiritera. Non si sentì di sopportarla. Con un rapido mutamento di espressione si alzò e uscì dalla stanza. Fairbrother Forse se fosse stato abbastanza forte da persistere nella propria determinazione di essere più comprensivo, perché lei lo era meno, quella serata avrebbe potuto avere un esito migliore. Se la sua energia fosse stata in grado di abbattere quell'impedimento, egli avrebbe potuto ancora influire sull'immaginazione e la volontà di Rosamond. Non possiamo avere la certezza che qualsiasi natura, per quanto inflessibile o particolare, resisterà a questo effetto da parte di una personalità più forte. Tale natura può essere presa d'assalto e per il momento convertita, divenendo parte dell'anima che lo avvolge nell'ardore del proprio moto. Ma il povero Lydgate sentiva un dolore pulsante dentro di sé e la sua energia non era stata all'altezza del compito. L'inizio di una comprensione reciproca e di una decisione comune parve quanto mai remoto, anzi, parve bloccato dal senso di uno sforzo fallito. Continuarono a vivere da un giorno all'altro, con i loro pensieri ancora separati. Lydgate occupandosi di quel poco lavoro che aveva, in preda a uno stato d'animo disperato, e Rosamond convinta con una certa dose di ragione che egli si stesse comportando con crudeltà. Era inutile dire alcunché a Tertius, ma quando Will Ladislaw arrivò, lei era decisa a raccontargli tutto. A dispetto della sua consueta reticenza, aveva bisogno di qualcuno che riconoscesse i torti da lei subiti. Capitolo 76. Alcuni giorni dopo, Lydgate si stava recando a cavallo a Lowick Manor a seguito di un invito da parte di Dorotea. L'invito non era giunto in attesa, poiché aveva fatto seguito a una lettera di Bulstrode in cui questi affermava di aver ripreso i preparativi per lasciare Middlemarch e doveva ricordare a Lydgate le proprie precedenti comunicazioni in merito all'ospedale, alla cui causa egli restava ancora fedele. Era stato suo dovere, prima di intraprendere passi ulteriori, affrontare di nuovo l'argomento con Mrs. Chasuble, la quale desiderava, come in precedenza, discutere della questione con Lydgate. «Può darsi che le vostre intenzioni abbiano subito un qualche mutamento», scrisse Mr. Bulstrode, «ma anche in questo caso è auspicabile che le sottoponiate a lei». Dorotea attendeva il suo arrivo con impaziente interesse. Sebbene per deferenza ai suoi consiglieri maschi si fosse trattenuto da ciò che Sir James aveva definito immischiarsi in questa faccenda di Bulstrode, le era di continuo presente la crudele posizione di Lydgate, e quando Bulstrode si rivolse di nuovo a lei per l'ospedale, capì che era giunta l'occasione favorevole che le era stato impedito di affrettare. Nella sua dimora lussuosa, passeggiando sotto i rami dei grandi alberi, il suo pensiero andava al destino degli altri e i suoi sentimenti erano prigionieri. L'idea di qualche buona azione alla propria portata lo ossessionava come una passione, e una volta che il bisogno di un altro le era giunto, come un'immagine nitida, la tormentava il desiderio di apportare sollievo e toglieva ogni gusto al suo benessere. Attendeva colma di fiduciosa speranza questo colloquio con Lydgate, non badando a ciò che si diceva sul suo riserbo personale, non badando al fatto che lei era una donna assai giovane. A Dorotea nulla sarebbe potuto sembrare maggiormente fuori di proposito dell'insistere sulla sua giovinezza e sul suo sesso, quando era spinta a mostrare il proprio senso di fratellanza umana. Mentre sedeva in attesa nella biblioteca, non poteva far altro che rivivere tutte le scene trascorse che avevano portato Lydgate a far parte dei suoi ricordi. Esse traevano tutta la propria importanza dal suo matrimonio e dalle afflizioni di questo, ma no. C'erano due occasioni in cui l'immagine di Lydgate le si era presentata dolorosamente in rapporto con la moglie di questi e qualcun altro. Il dolore in Dorotea era stato lenito, ma aveva lasciato in lei un barlume di congettura su ciò che potesse essere per Lydgate il suo matrimonio, una suscettibilità al minimo accenno a Mrs. Lydgate. Questi pensieri per lei erano come un dramma e le rendevano gli occhi luminosi e conferivano un atteggiamento di apprensione a tutta la sua figura. Sebbene stesse solo guardando fuori dell'oscura biblioteca sulla distesa erbosa e i boccioli di un verde brillante che si stagliavano nettamente contro gli scuri sempreverdi. Quando Lydgate fece il suo ingresso, rimase quasi sbalordita dal mutamento sul suo volto, visibile in misura notevolissima a lei che non lo vedeva da 2 mesi. Non era un deperimento, ma le conseguenze che appaiono persino sui volti giovani in seguito alla persistente presenza del risentimento e dello sconforto. La sua occhiata cordiale, quando gli porse la mano, gli addolcì l'espressione, ma solo velandola di malinconia. «È da molto tempo che ho un gran desiderio di vedervi, Mr. Lydgate», disse Dorotea quando si trovarono seduti l'uno di fronte all'altra. ma ho rimandato di chiedervi di venire fino a quando Mr. Balstrow non si fosse di nuovo rivolto a me in merito all'ospedale. So che il vantaggio di mantenere la direzione di esso separata da quella del vecchio ospedale dipende da voi, o perlomeno dall'utilità che siete incoraggiato a sperare se esso resta sotto il vostro controllo. E sono certa che non vi rifiuterete di dirmi esattamente cosa pensate. Sta a voi decidere se dare un generoso appoggio all'ospedale, disse Lydgate. Io in coscienza non posso consigliarvi di farlo subordinatamente a una qualsiasi attività da parte mia. Può darsi che sia obbligato a lasciare la città. Parlò bruscamente, disperando dolorosamente di essere in grado di realizzare qualsiasi progetto a cui Rosamond si fosse opposta. Non perché non ci sia nessuno che creda in voi? Chiese Dorotea, riversando le proprie parole con chiarezza da un cuore traboccante. Conosco i disgraziati errori sul vostro conto. Fin dal primo momento ho saputo che erano errori. Voi non avete mai commesso nulla di abietto. Non fareste alcunché di disonorevole. Erano le prime parole di rassicurante fiducia in lui che raggiungessero le orecchie di Lydgate. Trasse un profondo respiro e disse: Vi ringrazio. Non gli riuscì di dire altro. Era un qualcosa di assai nuovo e strano nella sua vita che queste poche parole di fiducia provenienti da una donna significassero tanto per lui. Vi prego di raccontarmi com'è andato tutto, disse Dorotea intrepida. Sono certa che la verità vi discolderebbe. Lydgate si alzò di scatto dalla poltrona e si diresse verso la finestra, dimentico di dove si trovava. Aveva così spesso esaminato mentalmente la possibilità di spiegare tutto, senza aggravanti che forse avrebbero pesato ingiustamente su Balstrow, e aveva così spesso deciso per il contrario. Si era detto così di frequente che le sue affermazioni non avrebbero mutato l'impressione della gente, che le parole di Dorotea suonarono come una tentazione a fare qualcosa che nella sua assennatezza aveva definito irragionevole. Raccontatemi, vi prego, disse Dorotea con onesta semplicità, poi potremo consultarci fra di noi. È immorale lasciare erroneamente pensare male di qualcuno quando ciò si può impedire. Lydgate si volse, ricordandosi di dove si trovava, e vide il volto di Dorotea alzato verso di lui con una dolce e fiduciosa gravità. La presenza di una natura nobile, dei desideri generosi, di un ardente amore per il prossimo, cambia in noi l'aspetto delle cose e ricominciamo a vederle nella loro massa più ampia e tranquilla e a credere che anche noi possiamo venir visti e giudicati nella globalità del nostro carattere. Quell'influsso cominciava ad agire su Lydgate, che da molti giorni vedeva tutta la vita come uno che è trascinato e si dibatte in mezzo alla folla. Si sedette di nuovo ed ebbe la sensazione di recuperare la personalità di un tempo nella consapevolezza di trovarsi con una persona che credeva in essa. Non ho intenzione, disse, di essere severo con Balstrow, il quale mi ha prestato del denaro di cui avevo necessità, per quanto ora preferirei averne fatto senza. Ora è perseguitato e sofferente e non gli resta che un filo di vita. Ma desidererei raccontarvi tutto. Per me sarà un conforto parlare a chi ha avuto fiducia in me in anticipo, a chi non darò l'impressione di presentare una difesa della mia onestà. Voi troverete ciò che è giusto per un altro nella misura in cui provate ciò che è giusto per me. Fidatevi di me, ve ne prego, disse Dorotea. Vi prometto di non riferire nulla senza il vostro permesso. Ma quantomeno potrei dire che mi avete chiarito tutte le circostanze e che so che non siete colpevoli in alcun modo. Mr. Fairbrother mi crederebbe, mio zio e Sir James Chatham. Anzi, a Middlemar ci sono persone dalle quali potrei andare, le quali, sebbene non sappiano molto di me, mi crederebbero. Saprebbero che io non sarei spinta da altro motivo che dalla verità e dalla giustizia. Mi darei da fare in ogni modo per scagionarvi. Ho ben poco da fare. Non c'è nulla di meglio che possa fare al mondo. La voce di Dorotea, mentre tracciava questo quadro infantile di ciò che avrebbe fatto, si sarebbe quasi potuta prendere a dimostrazione che avrebbe potuto farlo con successo. La tenerezza penetrante della sua voce femminile sembrava fatta per difendere uno da chi era pronto ad accusarlo. Lydgate non si soffermò a pensare al donchisciottismo di quella donna. Si abbandonò, per la prima volta in vita sua, alla sensazione intensa di appoggiarsi interamente a una generosa simpatia, senza alcun freno di orgoglioso riserbo. E le racconto tutto, dal giorno in cui, sotto l'assillo delle proprie difficoltà economiche, si era rivolto di malavoglia per la prima volta a Balstrò. Poco a poco, nel sollievo della parola, diede una più completa espressione a ciò che gli era passato per la mente, spiegando pienamente il fatto che il suo trattamento del paziente era l'opposto della pratica dominante. I suoi dubbi su quest'ultima, il suo ideale di deontologia medica e la sua coscienza turbata dal fatto che l'aver accettato il denaro avesse reso in qualche modo diversi la sua personale inclinazione e il suo comportamento professionale, per quanto non l'adempimento di qualsiasi obbligo pubblicamente riconosciuto. Da allora sono venuta a sapere, aggiunse, che Oli ha mandato qualcuno a interrogare la governante di Stoncourt. E lei ha detto di aver somministrato al paziente tutto l'oppio contenuto nella fiala che aveva lasciato, oltre una buona dose di brandy. Ma ciò non sarebbe stato contrario alla cura ordinariamente prescritta, anche da uomini di prim'ordine. I sospetti contro di me su questo punto non avevano nulla su cui poggiare. Essi si basavano sulla notizia che ho accettato del denaro, che Balstrò aveva validi motivi per desiderare che l'uomo morisse. E che lui mi ha dato il denaro per corrompermi e contribuire a somministrare qualche cura sbagliata o altro ai danni del malato, che in ogni caso ho accettato di farmi corrompere per tenere la bocca chiusa. Sono proprio questi i sospetti che resistono più ostinatamente, perché sono radicati nelle propensioni della gente e non si possono confutare. In qual modo si sia giunto a disobbedire ai miei ordini è un interrogativo di cui non conosco la risposta. È ancora possibile che Balstrò non nutrisse alcuna intenzione criminale. È addirittura possibile che egli non avesse nulla a che fare con quella disobbedienza e si sia semplicemente astenuto dal farne cenno. Ma tutto questo non c'entra con ciò che crede la gente. È uno di quei casi in cui un uomo viene condannato a causa del suo carattere. Si crede che abbia commesso un delitto in qualche modo indefinito, perché aveva le sue buone ragioni per farlo. E il carattere di Balstrò ha coinvolto me perché ho preso il suo denaro. Sono semplicemente rovinato, come una spiga di grano bacata. La cosa è fatta e non si può disfare. Oh, sono parole dure, disse Dorotea. Capisco che possa essere difficile discolparvi e che tutto questo debba essere capitato a voi che intendavate condurre una vita superiore a quella comune e scoprire modi più nobili. Non posso sopportare di considerare ciò immutabile. So che quelle erano le vostre intenzioni. Ricordo cosa mi diceste quando mi parlaste per la prima volta dell'ospedale. Non c'è cosa triste a cui io non abbia pensato maggiormente. Amare ciò che è grande e cercare di raggiungerlo, eppure non riuscirci. Sì, disse Lydgate, avvertendo che in lei aveva trovato spazio per il pieno significato del suo dolore. Avevo qualche ambizione. Nei miei progetti tutto doveva essere diverso per me. Pensavo di avere più forza e padronanza. Ma gli ostacoli più terribili sono quelli che gli altri non vedono. Supponiamo, disse Dorotea con aria meditabonda, supponiamo che si continui a far funzionare l'ospedale secondo il progetto attuale e che voi restiate qui, anche se solo con l'amicizia e l'appoggio di pochi. La malevolenza nei vostri riguardi si estinguerebbe, si presenterebbero occasioni per cui la gente sarebbe obbligata a riconoscere di essere stata ingiusta nei vostri confronti, perché si renderebbe conto che i vostri fini sono stati innocenti. Potete ancora guadagnarvi una gran fama come i Lewis e i Lennec, di cui vi ho sentito parlare, e tutti saremmo orgogliosi di voi, concluse con un sorriso. Questo potrebbe succedere se avessi la fiducia di un tempo in me stesso, disse Lydgate tristemente. Nulla mi esaspera più dell'idea di voltarmi e scappare via davanti a questa calunnia, lasciando che si sfoghi liberamente alle mie spalle. Eppure non posso chiedere a uno di investire una grossa somma di denaro in un progetto che dipende da me. Per me sarebbe assai conveniente, disse Dorotea con semplicità. Pensate soltanto questo. Mi trovo assai a disagio con i miei soldi, perché mi dicono che possiedo troppo poco per qualsiasi grandioso progetto che amo maggiormente. Eppure possiedo troppo. Ho 700 sterline all'anno di patrimonio mio e 1900 all'anno me ne ha lasciate Mr. Kesabo e fra le 3 e le 4000 sterline di denaro liquido in banca. Volevo raccogliere dei soldi che mi ripromettevo di rendere gradualmente con le mie entrate di cui non ho bisogno per comprare della terra e fondare un villaggio che fosse una scuola di operosità. Ma Sir James e mio zio mi hanno convinto che il rischio sarebbe troppo grande. Così capite che ciò di cui mi rallegrerei maggiormente sarebbe una qualche azione buona da fare con i miei soldi. Mi piacerebbe rendere migliore la vita degli altri. Mi fa stare così a disagio. Tutto quel denaro che viene in mano a me, che non lo voglio.